Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e benvenuti. Siamo qui in questa casa che non è un albergo, dove oggi si respira un'atmosfera allegra, speciale, luminosa. Anche Alberto Pellai è qua davanti a me sorridente. C'è Giacomo Spunta in regia la parte tecnica, Gigi Borghi in redazione. Alberto, dopo un tema impegnativo come quello dell'altra settimana, oggi abbiamo deciso di farci aiutare dai nostri ascoltatori per andare un pochino indietro nel tempo, per avere suggerimenti per stare bene con i nostri figli. Sì, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi davvero prendete carta e penna, perché costruiremo una piccola comunità di genitori che sono stati figli oppure che sono in gioco adesso con i loro figli, e vorremmo nei nostri appunti segnare piccole cose belle che lasciano il segno nella vita di un figlio. Quindi non l'ordinarietà. È chiaro che tutti i giorni tutti noi ci diamo molto da fare per i nostri figli, per farli felici, però ci sono anche loro per far felici noi. Certo, assolutamente. Ci sono piccole cose straordinarie che possono davvero cambiare un po' il corso, il percorso di crescita. Forse vostra mamma o vostro papà una volta con voi durante la vostra adolescenza ha fatto una cosa che vi ha davvero colpito, ha lasciato il segno, magari quando eravate bambini. Io, Nico, se vuoi ti racconto una cosa, per esempio, che non ho mai dimenticato. Dai. Stava per arrivare il mio primo giorno di scuola, alla scuola elementare. C'era il rito con alcune zie di andare a comprare la cartella. Io volevo una cartella gialla, ma nessuno me la voleva comprare, per cui mi hanno portato in questo negozio, ho comprato una cartella blu e io volevo quella gialla. Sono tornato a casa e quando il mio papà ha visto, mi ha detto: ma che bella cartella, è quella che volevi? Io ho detto: no, veramente io la volevo gialla. Mio papà ha ordinato che si tornasse indietro a cambiare la cartella per il bambino. 5 anni. Bello. Mi ricordo proprio questo momento come un momento in cui mi hanno detto: hai un potere, puoi scegliere, è un tuo diritto. Bello, mi piace. Quindi ricordi di ieri, ma tante volte noi non pensiamo che prendere una buona abitudine con i nostri figli, un appuntamento, può essere veramente una strada per intrecciare ancora di più questa relazione, farla diventare speciale. Adesso andiamo a sentire la lettera che ci ha un po' ispirato il tema di questa settimana e poi torniamo insieme. Intanto io vi ricordo, dato che il tema l'abbiamo lanciato, che potete sin d'ora intervenire all'824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Siamo pronti naturalmente a darvi anche dei consigli. Magari qualcuno di voi, alle prese con un figlio adolescente, vorrebbe trovare il modo per una strada, un gesto, una parola, per magari superare alcuni momenti di crisi, però la fantasia non lo aiuta. Allora mettiamo al lavoro Alberto Pellai. Adesso la lettera e poi le vostre telefonate. Ora che sono adulta e non ho più mio padre, mi rendo conto di quanto fondamentale sia stata la sua presenza nella mia vita. Era spesso in viaggio, lavorava moltissimo, ma non dimenticherò mai il giorno in cui ho compiuto 14 anni e mi ha invitato fuori a cena, solo io, senza la mamma. Mi sono sentita importante, unica e speciale di fronte ai suoi occhi. Quella sera mi disse che stavo definitivamente diventando grande e che quel mondo, in cui lui viaggiava tanto per lavoro, sarebbe stato lo stesso mondo in cui io avrei portato in giro la mia vita e quello che della mia vita volevo fare. Ricordo ancora con commozione le esatte parole che mi disse in quell'occasione. Quella sera mi annunciò il regalo che mi avrebbe fatto da lì fino ai 18 anni. Una lettera ad ogni compleanno, in cui mi raccontava cosa capiva, cosa vedeva, cosa pensava di me, guardandomi muovere nella vita e nel mondo. E fino ai 18 anni, puntuale, ogni anno ho trovato sul mio cuscino la sua lettera regalo di compleanno. Quelle lettere, ne sono convinta, mi hanno cambiato la vita e mi hanno aiutato a diventare la donna che sono. Tuttora le rileggo quando sono triste oppure ho voglia di sentirlo vicino a me. Ciò che ha fatto con le lettere mio padre è stata una cosa semplicissima, che non costava nulla, ma che per me, sua figlia adolescente, ha avuto un valore inestimabile. Ma perché i genitori, sempre più allo sbando, non imparano a stupire i loro figli con piccoli, grandi gesti così speciali? tante volte basta un piccolo gesto per stupire il nostro, nostro figlio, la nostra bambina. Alberto, tu li fai con i tuoi? Con i tuoi quattro ne hai da fare? Io ci provo, devo dire che poi proprio come genitore rifletto sul fatto che saranno queste piccole grandi cose quelle che rimangono nel cuore e nella mente dei nostri figli e terranno viva la relazione nonostante il passare del tempo. E in linea con noi abbiamo una persona che è entrata nel cuore degli italiani, è Irene Ferri, attrice. Ciao Irene. Buongiorno a tutti. Impegnata tutte le domeniche nella fiction Tutti pazzi per amore, grandissimo successo televisivo la domenica su Rai 1. Nella fiction sei mamma di tre gemelli, ma anche nella vita sei mamma di un bambino di 2 anni, giusto? Esattamente. Che allora Irene, oggi avrai tanti ruoli. Farai la mamma dei tre gemelli, farai la mamma vera, farai la figlia. Faccio un po' tutto, ecco. Ovviamente, come tutti noi. Insomma. Come tutti noi. Da che ruolo vuoi cominciare? Ma non saprei, adesso sentendo questa lettera che era veramente molto molto bella, naturalmente mi è venuto in mente subito il mio ruolo di figlia. Certo. Di come è stato con insomma, ci sono dei ricordi molto vivi che ho con mio padre, soprattutto rispetto alla mia infanzia, e devo dire che poi quando uno dei genitori non c'è più, diventano tutti molto più vivi e più presenti, anche se poi c'erano anche prima ovviamente, però rispetto a perdere un genitore, avere un figlio e quindi ricominciare un percorso ti riavvicina incredibilmente a certe cose del passato, a certe cose della tua infanzia, che insomma magari un po' avevi non dimenticato ma messo un po' da parte. Sì, ecco, invece parte, poi sì. Impari a rileggerle con un altro paio, sì, di occhiali. Come promesso, siamo tornati insieme veloci veloci per parlare di noi e dei nostri figli. A volte basta un gesto, un appuntamento. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, il nostro esperto, e con Irene Ferri. Irene, ma tu adesso come mamma hai già preso degli appuntamenti, dei gesti, delle buone abitudini con il tuo bambino? Cose un po' che escono dal quotidiano? Ma la prima cosa che mi viene in mente sono gli appuntamenti quotidiani, quelli della routine. Sì. Che però sono fondamentali sia per me che anche credo per mio figlio, nel senso, non so, la cena a una certa ora, il bagno a un'altra ora, andare a dormire alle 8:30. Sono degli appuntamenti che secondo me gli fanno bene, perché al di là del fatto che una sorpresa è molto gradita per un bambino, credo anche che certi percorsi con delle regole gli facciano bene, gli diano una sicurezza, no? Quindi lui sa che a quell'ora succedono quelle cose, e devo dire che all'interno di queste cose c'è sempre modo di trovare un gioco, un modo per farle insieme, farle diventare un momento speciale. Il momento in cui io lo preparo per metterlo a letto è sempre un momento che a me mi riempie di gioia. No, ma si sente, Irene, si sente. In realtà Irene dice una grande verità anche in termini psicologici, soprattutto i bambini, i rituali e la possibilità di stare dentro un'abitudine dove la cura si riempie di affetto, e quindi non c'è solo occuparsi di te, ma proprio prendersi cura di te. Con una, io aspetto quel momento, io lo voglio, quel momento lo desidero, ed è una cosa che poi costruisce davvero la relazione e il ricordo nel tempo. Ma dal tuo album dei ricordi, proprio dicevi prima Irene, pensando a cose speciali che il tuo papà ha fatto con te quando eri figlia, prova a estrarne uno e a raccontarcelo. Quello della colazione che mi ha accompagnato sia nel momento, insomma, quando ero proprio una bambina, quindi quando andavo alle elementari, ed era mio padre che si occupava della colazione e che diceva sempre che la colazione era un momento fondamentale, che bisognava nutrirsi bene, dovevamo prendere un sacco di vitamine, no? E quindi la frutta, sante parole, latte. E la cosa bellissima che io mi ricordo era mio padre con la giacca e la cravatta, e spostava la cravatta di là. Sì. E sbatteva le uova per farmi l'uovo sbattuto, e c'era questo rumore meraviglioso, che è unico, dell'uovo sbattuto con il mestolo di legno, di legno. La, la, la ciotola, e lui con questa cravatta di lato che girava per casa e mi sbatteva l'uovo mentre io mi lavavo, e poi mi dava questo uovo sbattuto che era una, insomma, una carica energetica che mi avrebbe fatto affrontare sì. una giornata. Senti, in dentro c'era anche tutto il suo amore per dire dai piccina vai. Sì, bello. No, infatti era questo insieme ai frullati, mi faceva dei frullati incredibili la mattina, quindi lui era proprio questo, insomma. Poi era molto presente perché mio padre aveva un lavoro notturno e quindi insomma era molto presente poi durante il giorno, sì. c'era insomma. Ecco, proprio un papà che nutre, Alberto. Sì, direi che nel gesto del proprio preparare è bello, il cibo bellissimo. C'è l'aspetto concreto, ma poi anche l'aspetto proprio relazionale. Loris ci chiama da Milano, 824-0024. Loris, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Loris, cosa ci racconta? Una storia da padre o una storia da figlio? Può anche raccontarcene due di storie, le accettiamo? Provo a raccontarvene due, allora. Allora, Oggi succederà che la mia bambina più grande, che ha 8 anni, compie 8 anni oggi. È il suo compleanno. Bene. Suo compleanno. Auguri da questa casa non è un albergo. Grazie mille. E oggi per lei era un buon giorno, perché il sabato pomeriggio di solito viene portata in piscina e lei vede questo evento come un finale della settimana molto bello. Sì. E io le ho proposto invece di venire a accompagnarmi a una fiera della tecnologia che si svolge a Milano in questi giorni. E pensa alla giornata un po' barbosa, perché l'ho vista anche in faccia un po' sì. così. Anch'io devo dire che quando lei me l'ha detto ho fatto un po' una faccia come per dire hai un passo falso. Ecco. Difatti del fatto pensava, ecco, mi salto la piscina, io volevo andare così. E invece non sa che io dentro questa fiera gli comprerò questo fantomatico, non so se posso fare la pubblicità, gioco elettronico che hanno praticamente tutti i bambini della sua età. Quindi è un... Quindi il regalo arriverà dentro alla fiera oggi. Arriverà dentro la fiera, in questo posto dove lei pensa di annoiarsi a morte. Spero per lei che sia un evento, non dico da ricordare per la vita, però che sia un gesto di da tenere nel cuore. Senta, perché... invece Loris, suo papà o sua mamma, come l'hanno stupita? C'è una cosa che lei ricorda? Un po'... Irene ci raccontava di questo papà che preparava la colazione con questi gesti, la nutriva infatti d'affetto e anche con la colazione, ma un papà molto presente. Qualcosa infatti, dei suoi? Ti vorrei collegare proprio questa cosa, perché arrivo da una civiltà contadina dei miei genitori che mio padre ha portato avanti finché era in vita, e mi ricordo che anch'io da piccolino ogni volta quando venivo svegliato da mio padre, poi non volendosi alzare dal letto iniziava a canticchiare delle piccole canzoncine per svegliarmi, e poi preparava anche lui, come diceva la signora precedentemente, le uova sbattute con questo mestolo, sì. Si curava molto di questa colazione mattutina, ed è un ricordo che bello. Mi porto volentieri. Grazie allora Loris, e tanti auguri alla sua bambina. Grazie anche a voi, arrivederci. Voglio leggervi un messaggio. Sono una entusiasta docente di pianoforte. Per me era felicità pura quando mia mamma si sedeva tranquilla in poltrona, e ci mette tra parentesi senza cellulare, faceva la maglia, leggeva ed ascoltava i miei esercizi incoraggiandomi. Se ho superato le difficoltà lo devo a lei e a questi momenti di tranquillità e serenità. È davvero una bellissima testimonianza, e questo è uno di quei ricordi che sta nell'area della relazione. Noi possiamo davvero fare tantissime cose speciali in molte diverse dimensioni della vita dei nostri figli. Questa è proprio l'area dello stare con, posare il proprio sguardo su un figlio e dare valore a tutto quello che fa semplicemente perché lo stiamo a guardare. Irene, tu sei anche una mamma di 3 gemelli. Ti vediamo tutte, una mamma virtuale, ormai per noi che ti seguiamo, e devo dire Alberto ed io non ci perdiamo una puntata. Sono contenta. Sì, sì. Tra l'altro però anche tu hai fatto una fiction che in qualche modo ci riguarda. Assolutamente sì, dalla parte dei figli quella volta, perché si chiamava appunto Questa casa non è un albergo. Vedi, siamo senti Irene, praticamente siamo parenti. Anche perché insomma questa è una frase che insomma adesso tutti quanti ci siamo sentiti dire a un certo brava punto, secondo no? me si dice oggi si dice poco perché non produce più gli effetti che faceva ai nostri tempi, no? È perché vero. Se tu adesso ad un adolescente gli dici guarda che questa casa non è un albergo, no, no, tira avanti, dice ma vabbè, e comunque esce. Senti Irene, con questi tre gemelli. Sì. Con questi tre gemelli è un po' una fatica terrificante, perché appunto era Rosa, il mio personaggio, era una donna che prima aveva una vita insomma anche un po' glamour, no? Cioè, addirittura che prima avesse un caschetto biondo, quindi insomma il caschetto biondo richiede una cura pazzesca, sì, <è benissimo. ride> soprattutto per una mora, e quindi insomma molto curata, lavora in un giornale di moda, insomma per donne, femminile, no? Quindi insomma una certa... L'arrivo di tre gemelli tutti insieme naturalmente ha sconvolto completamente la sua vita, tanto è vero che insomma si presenta al lavoro spesso in condizioni penose, non so, con una scarpa sì e una no, insomma una diversa dall'altra, con questo fatto che poi un po' abbiamo fatto di farle di truccare un occhio sì ed uno no. Sì. Diciamo che andare a lavorare per lei è un po' un continuare a vivere, nel senso andare in vacanza, che è una cosa che devo dire mi assomiglia anche poi alla mia vita, nel senso che quando io vado a lavorare e non sto tutto il giorno con Adriano, devo dire un po' è una vacanza. No, no, ma guarda, perché per chi ha la fortuna di poter fare un lavoro che piace, certo, appassionante, chiaro, eccetera, devo dire che stacchi la spina di quella e tiri un sospiro quasi di sollievo, perché solo, devi pensare solo a te. Non solo, di energie nuove, anche di insomma, sei dopo sei anche molto più ben disposta verso tuo figlio, sei molto meno stanca, anche se sei più stanca perché magari hai lavorato, non so come dire. Infatti, però, guarda Irene, ti devo, fare un lavoro che ti piace. Ti devo confessare, quando arriva Alberto Pellai qua, per Questa casa non è un albergo, lo vedo proprio che lo vedo con magari il viso un po' rilassato. Quando torna fuori è una, cioè lavorando diventa una Pasqua, perché lui lavora praticamente i lavori quasi forzati. Adesso se Barbara, sua moglie, mi sente, che in effetti fa tutto lei, ma anche lui insomma è provato. Adesso io volevo, se c'è tempo, Giacomo, posso? Sì, Giacomo mi dice di sì. Maria ci chiama dalla provincia di Trento. Maria, buongiorno. Ciao, sono Maria, vi ascolto sempre. E io sono una nonna di 55 anni. Una nonna giovanissima. Ma il ricordo che mi avete fatto tornare alla mente con la vostra trasmissione oggi è proprio, è collegato a quello che stiamo vedendo anche in questo momento, perché qui ci sono i camini che fumano, la neve che sta per scendere di nuovo per la centesima volta quest'anno. E il ricordo è proprio legato alle sere d'inverno di quando io andavo all'asilo. Avevo all'epoca soltanto una sorellina, perché poi siamo diventati cinque, e finché eravamo soltanto noi due, papà aveva molto più tempo da dedicarci, perlomeno la sera. La cosa bellissima, io ritengo, era che mentre la mamma lavava i piatti dopo cena, lui ci sedeva sul tavolo, ci cambiava, ci metteva il pigiamino e si trasformava in un attore. E raccontava una storia a puntate che gli veniva lì per lì, facendo proprio tutte le... cioè si spettinava, faceva le facce strane, noi ridevamo come... E lo credo, Irene, che bel ricordo, bellissimo, magnifico. È un ricordo magnifico. Siamo tornati insieme, momenti che rendono speciale la relazione tra noi e i nostri figli. Abbiamo in linea con noi Irene Ferri, in studio Alberto Pellai, abbiamo Maria da Trento che ci ha raccontato una storia bellissima. Maria. Senti, adesso tu hai figli? Io ho due figli grandi, sì, 33 e 34 anni. Senti, hai fatto qualcosa di speciale per loro, per un po' come ha fatto tuo papà? Secondo te che cosa si raccontano quando pensano a te? Ti ricordi la mamma quando? Non lo so, io so che la sera, per esempio, mi dicevano vieni in camera e chiudi la porta. E lì mi facevano domande. Prima si erano consultati fra di loro, perché hanno un anno di differenza, sì, e poi chiedevano domande per avere spiegazioni, per esempio. Questo era uno. Quindi c'era il rito dell'interrogazione della mamma. Ma più che interrogazione era una sorta di confessionale, che ne so, volevano così confrontarsi su come si erano comportati o qualcosa che era successo o una domanda. Certo, bello. Alberto, a te lo fanno i tuoi bambini? Ti dicono papà vieni o chiudo la porta, oppure ti dicono stai fuori dalla porta? Guarda, a casa mia non c'è bisogno di farmi chiudere nella stanza e chiudere la porta, parlano sempre loro, tanto che a volte dobbiamo dire bambini è anche il nostro turno. Ringraziamo Maria perché ci ha davvero regalato una storia da segnare sul diario delle nostre emozioni. Volevo dare un consiglio ai nostri genitori, lei ci ha dato proprio un'idea di una esperienza speciale che riguarda il mondo delle emozioni e della relazione. Se avete figli adolescenti, molto probabilmente una delle sfide più importanti che adesso vi state giocando con loro è legata alla fiducia e alla disciplina, cioè probabilmente voi starete presidiando il territorio delle regole e loro vorranno invece conquistare sempre massimi spazi di libertà. Se siete genitori molto autorevoli, molto fermi, molto ferrei, ascoltate, poi mi spiegate come fate, mi mandate una mail. Ascoltateci quello che ci ha detto Lucio di Ferrara. Mio papà era molto severo, ma quando il mio mito musicale arrivò in Italia per un concerto, lui mi regalò biglietti e viaggio per il mio compleanno, lasciandomi senza parole. Ecco, questo è un esempio di una cosa speciale che va a toccare la relazione di fiducia e che comunica a un figlio, anche se io in qualche modo presidio con molta attenzione il tuo territorio della crescita e della libertà, so che di tanto in tanto posso davvero avere fiducia di te e ti faccio vivere un'esperienza di massima libertà e massima gioia. E invece io voglio leggere un messaggio che arriva da Palermo, ce lo scrive Nicoletta, lo voglio condividere con Irene, con le nostre ascoltatrici. Ci scrive: mio papà una volta al mese mi regalava un mazzo di fiori, mi ha insegnato a capire come un uomo deve trattare una donna. Irene. Beh, mio padre in questo è stato un esempio meraviglioso, sia con me che con mia madre, perché io credo che sia stato, insomma, mio padre per esempio è stato presente in un momento in cui magari sarebbe dovuta essere più presente mia madre, ma per un problema proprio tecnico non era a Roma. E io è stata la prima volta che insomma ero diventata una donna. Sì. E mi ricordo che mio padre fu molto delicato, molto, molto affettuoso. Io me ne sentivo un po' in imbarazzo. Sì, perché di solito se ne parla con la mamma. Sì, sì, esatto. Ma però, capita insomma, in qualunque momento, magari la mamma non è lì, è fuori. Sì, certo. infatti è successo proprio questo. Mia madre era via per lavoro e quindi mio padre fu appunto molto, molto delicato e mi comprò queste rose e mi disse: da oggi tu sei diventata una donna, insomma. E questa cosa mi fece molta paura, devo dire, no? Perché insomma si apriva tutto un mondo di aspettative, anche oltre che di tanto altro, di diverso da quello che io mi sentivo, perché poi io mi sentivo in realtà ancora molto piccola. Sì. E ho continuato a sentirmici per tanto tempo nonostante i cambiamenti del mio corpo, insomma, no? E mi ricordo che quel giorno mi portò delle rose e insomma fu un momento particolare, perché appunto io sentivo un imbarazzo, perché appunto lui era un uomo, era mio padre, quindi pensavo che insomma ci dovesse essere mia madre, però nello stesso tempo mi fece sentire importante, mi fece capire che quello era un momento anche decisivo, no? Della vita, sicuramente. Un cambiamento fondamentale. Si vede, ha avuto le parole giuste. Sì, sì, devo dire di sì. Bene. E poi comunque nel corso della vita, insomma, mio padre è sempre stato molto attento. Mi ricordo che ogni tanto mio papà tornava a casa con dei fiori o per mia madre o per me, anche senza un motivo particolare. Anche senza un motivo, è questo che stupisce. Allora, è un invito, vi stiamo facendo un invito. 824 0024 è il nostro numero verde per raccontare le vostre storie, le vostre esperienze, le vostre emozioni, ma direi che è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro Genitori felici, crescere felici con i propri figli. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it indicando il titolo del libro, il recapito e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E adesso abbiamo un amico che ci aspetta, ci chiama da Genova. Corrado, buongiorno. Buongiorno, allora complimenti come al solito, ogni tanto ho già chiamato in altri programmi vostri, ascolto sempre, e io niente, volevo così, io in effetti ho tentato di stupirle sempre un po' le mie due figlie, io ne ho una di 4 e una di 14, sì. Quindi già, e cosa ho fatto? Un po' è stato dettato da una situazione sfavorevole della mia figlia grande, che è nata con un po' di problemi di deambulazione, di limitate capacità motorie, e allora io ho un po' come sfida, un po' per una passione che ho sempre avuto insieme a mia moglie di viaggiare, ho iniziato a portarla in giro per il mondo e ti dico, alla fine a 14 anni ora penso sia una delle bambine in Italia che ha viaggiato di più tutto il mondo, e lì riesco a stupirla quasi sempre, perché arrivo un giorno a casa e gli dico, boh, partiamo per la Cambogia, e tutta la famiglia si è trovata magari da un giorno all'altro. Questo è un po' legato anche a un, quando io ero piccolo mi ricordo che ho proprio ricordo della felicità di mia madre quando tornava dai viaggi, anche lei mi ha trasmesso questa passione. E quindi poi lì riesco a stupirla molto meglio, forse perché sono i momenti in cui riesco a godermi veramente la famiglia quindi appieno, senza influenze esterne, che siano di lavoro, che siano di parenti, che siano di amicizie, di disturbo quotidiano. No, certo, è un momento proprio, Corrado, per voi. La sua è una storia bellissima, perché racconta la storia di un papà al quadrato. Intanto, proprio da una fatica, da un piccolo ostacolo nella vita di sua figlia, lei è riuscita a tirare fuori la risorsa. E poi l'altro aspetto è che racconta davvero cosa dovrebbe fare un papà, che è un papà che facilita l'esplorazione del mondo per i propri figli. Quindi è davvero una bellissima storia, e credo che le sue siano due bambine molto molto fortunate. Grazie, arrivederci. Grazie Corrado, grazie. Buoni viaggi. Grazie mille. Saluto anche Irene, noi ti vediamo domani. Ci vediamo domani. Quindi sera, è un continuo, allora. Va bene, ci salutiamo solo a metà. Io va bene, anche io vi saluto molto e vi ringrazio, perché veramente questa mattina è stato sia mettermi a pensare a certe cose, sia sentire da voi le lettere, gli interventi delle persone che hanno chiamato, veramente un'esplosione di emozioni. Ma sì, infatti guarda, non comune. Bene, sono contenta, perché io devo dire che ci sono alcune puntate in cui io mi alzo sempre un po' commossa, e Alberto, sai, mi prende un po' in giro e mi dice, d'altra parte Nico, sai, anche tu hai la tua età, però in effetti non è questo, perché ci sono delle cose che emozionano. Io ho degli interventi di ascoltatori anche nel corso della settimana che mi toccano un po' il cuore. Va bene, bene così. Quindi io vi ringrazio molto. Grazie a te, Irene. Grazie, Irene. Noi, a presto, grazie. Arrivederci. Noi siamo in super chiusura, anzi sforando, vi vogliamo salutare, ma vogliamo segnalarvi con il nostro bollino blu obbligo di frequenza con Maria Piera Ceci, un argomento molto interessante. Alberto, dillo in un secondo. Vi porterà dentro una scuola dove hanno provato a mettere in pratica l'idea del ministro Gelmini, cioè mandare sms ai genitori cui i figli quel giorno non si presentano, le cose non sono andate bene come avrebbero immaginato. Adesso quindi non svegliamo nulla, obbligo di frequenza. Grazie, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.